Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Elsa Galbato legge Bellamy di Guy de Maupassant, traduzione di Giorgio Caproni. Georges rincasò molto calmo e domandò a Madeleine, che stava scrivendo alcune lettere, «Vuoi cenare venerdì dai Voltaire? Io ci vado». Lei rimase incerta, poi disse «No, non mi sento troppo bene. Preferisco restar qui». Lui rispose «Fa come vuoi. Nessuno ti costringe». Poi riprese il cappello e riuscì subito. Da un pezzo stava spiandola, sorvegliandola e pedinandola, e ne conosceva ogni passo. L'ora da lui attesa era finalmente giunta. Il tono con cui Madeleine gli aveva risposto «preferisco restar qui» non gli lasciava più nessun dubbio. Giunto il venerdì, si vestì molto presto per sbrigare alcune faccende prima di recarsi, così aveva detto, dal padrone. Poi, dato un bacio alla moglie, uscì verso le 6 e andò a prendere una carrozza in Place Notre-Dame-de-Lorette. Disse al vetturino «Fermatevi di fronte al numero 17 di Rue Fontaine e restate lì finché non vi ordinerò di muovervi. Mi porterete poi alla trattoria del Fagiano, in Rue Lafayette». La vettura si mise in moto al trotto lento del cavallo e Duroy abbassò le tendine. Come fu davanti al portone di casa sua, non staccò più gli occhi da quello. Dopo 10 minuti d'attesa, vide uscire Madeleine, che si diresse verso i boulevard esterni. Appena lei fu lontana, s'affacciò al finestrino e ordinò «Andiamo!». La carrozza ripartì e lo depose davanti al Fagiano, ristorante borghese noto nel quartiere. Georges entrò nella sala comune. Mangiò adagio, guardando ogni tanto l'orologio. Alle 7:30, bevuto il caffè, prese 2 bicchierini di cognac e, fumato lentamente un buon sigaro, uscì. Chiamò un'altra carrozza che stava passando, libera, e si fece portare in Rue La Rochefoucauld. Senza domandare nulla al portinaio, salì al terzo piano del casamento da lui indicato e alla domestica che era venuta ad aprire chiese «Il signor Gilbert Delorme è in casa, vero?» «Sì, signore». Fu fatto passare in salotto, dove aspettò qualche poco. Poi entrò un uomo alto, decorato, dall'aspetto marziale e coi capelli grigi, sebbene ancora giovane. Duroy lo salutò e gli disse «Come prevedevo, signor commissario, mia moglie sta pranzando col suo amante nell'appartamento ammobiliato che hanno preso in affitto in Rue de Martyr». Il funzionario si inchinò «Sono a sua disposizione, signore». Duroy disse «Ho la pianta dell'appartamento». «È al secondo piano. Troveremo prima un piccolo vestibolo, poi la sala da pranzo e la camera da letto. Le 3 stanze sono interdipendenti. Non c'è nessuna uscita che possa facilitare la fuga. Poco lontano c'è un fabbro. Si terrà pronto per mettersi a sua disposizione». Quando furono davanti alla casa indicata, erano appena le 8:15 e aspettarono in silenzio per più di 20 minuti. Ma quando Georges vide che stavano per suonare i 3 quarti, disse «Andiamo!». Salirono le scale senza preoccuparsi del portinaio, che d'altronde non s'era accorto di loro. Uno degli agenti rimase per la strada a sorvegliare l'uscita. I 4 uomini si fermarono al secondo piano e Duroy accostò l'orecchio alla porta, poi guardò attraverso il buco della serratura. Non sentì e non vide nulla. Suonò. Il commissario disse agli agenti «Voi restate qui, pronti ad ogni chiamata». Aspettarono. Dopo 2 o 3 minuti Georges tirò di nuovo il pomo del campanello, più volte di seguito. Percepirono un rumorio in fondo all'appartamento, poi un passo felpato s'avvicinò. Qualcuno veniva a origliare. Il nostro giornalista bussò allora energicamente con la nocca dell'indice sul legno d'uno dei pannelli. Una voce femminile, sforzandosi di rendersi irriconoscibile, domandò «Chi è?». Il pubblico ufficiale rispose «Aprite, in nome della legge!». La voce ripeté «Chi siete?». «Sono il commissario di pubblica sicurezza. Apra o faccio forzare la porta!». La voce riprese «Cosa volete?». E Duroy disse: «Sono io! È inutile che cercate di farcela!» Il passo leggero, un rumore di piedi scalzi s'allontanò, poi tornò in capo a qualche secondo. Georges disse: «Se vi rifiutate d'aprire, sfonderemo la porta!» Tenne stretta la maniglia d'ottone e adagio si mise a spingere con una spalla. Poiché nessuno rispondeva più, diede a un tratto un violento urtone così energico che la vecchia serratura di quella casa ammobiliata cedette. Le viti schizzarono fuori dal legno e per poco Georges non cadde addosso a Madeleine che stava in piedi nell'anticamera, in camicia e sottoveste, tutta spettinata, a gambe nude, con una candela in mano. «È lei!» esclamò Georges. «Li abbiamo presi!» E si precipitò nell'appartamento. Il commissario, toltosi il cappello, lo seguì. E la giovane signora, sgomenta, tenne loro dietro facendo lume. Attraversarono la sala da pranzo dove la tavola, non ancora sparecchiata, mostrava gli avanzi del pasto. Bottiglie di champagne vuote, una terrina aperta di fegato d'oca, la carcassa d'un pollo e dei pezzi di pane sbocconcellati. Sulla credenza c'erano due piatti pieni di gusci d'ostrica, messi uno sull'altro. La camera era tutta sottosopra, come se vi si fosse svolta una colluttazione. Un vestito da donna incappucciava una sedia, un paio di mutande maschili era a cavallo del bracciolo d'una poltrona. Quattro scarpe, due grosse e due piccole, erano strasciconi a piede del letto, piegate sul fianco. Il commissario si voltò di scatto e, guardando Madeleine negli occhi, «È lei la signora Claire Madeleine Duroy, legittima sposa del signor Prosper Georges Duroy, giornalista qui presente?» Lei articolò con voce strozzata: «Sì, signore». «Che sta facendo qua?» Lei non rispose. Il funzionario ripeté: «Che sta facendo qua? La trovo fuori di casa, discinta, in un appartamentino ammobiliato. Che c'è venuta a fare?» Attese qualche istante. Poi, siccome lei continuava a tacere, disse: «Visto che non vuol confessare, signora, sono costretto a far le constatazioni di legge». Si vedeva nel letto la forma d'un uomo nascosto sotto le lenzuola. Il commissario s'avvicinò e chiamò: «Signore!» L'uomo coricato non si mosse. Il pubblico ufficiale toccò quella che pareva essere una scapola e ripeté: «Signore, non mi costringa, la prego, ad agire!» Ma il corpo nascosto rimase immobile come quello d'un morto. Duroy, avvicinatosi anche lui spazientito, afferrò la coperta, la tirò e, strappando via il cuscino, scoprì il volto livido di La Roche-Mathieu. Si abbassò su di lui e, frenando a stento la voglia di prenderlo per il collo e strozzarlo, gli disse a denti stretti: «Abbia almeno il coraggio delle sue turpi azioni!» Il funzionario domandò ancora: «Chi è lei?» Poiché l'amante, smarrito, non rispondeva, soggiunse: «Sono il commissario di pubblica sicurezza e le ingiungo di dirmi il suo nome!» Georges, in preda a una collera bestiale che lo faceva tremar tutto, urlò: «Ma risponda, vigliacco, o glielo dirò io il suo nome!» L'uomo coricato disse allora: «Signor commissario, non può permettere a quel tizio di insultarmi. Devo trattar con lui o con lei? È a lui o a lei che devo rispondere?» Pareva che non avesse più saliva in bocca. Il pubblico ufficiale rispose: «A me, signore, soltanto a me. Le ho domandato chi è». L'altro tacque. Teneva il lenzuolo stretto sul petto e strabuzzava un paio d'occhi spaventatissimi. I baffetti all'insù sembravano neri come il carbone sulla sua faccia sbiancata. Il commissario ripeté: «Non vuol rispondere? Allora sarò costretto ad arrestarla. Comunque si alzi. La interrogherò quando sarà vestito». Il corpo s'agitò nel letto e la testa mormorò: «Ma non posso davanti a voi!» Il funzionario domandò: «Perché non può?» L'altro balbettò: «Perché sono completamente nudo!» Duroy si mise a sghignazzare e, raccattando di terra una camicia, la gettò sul letto gridando: «Su, perbacco, si alzi! Se si è spogliato davanti a mia moglie, può pur vestirsi davanti a me!» Poi gli voltò le spalle e tornò vicino al caminetto. Madeleine aveva ritrovato il proprio sangue freddo e, vedendosi ormai perduta, era pronta a usare il tutto per tutto. Un'audacia smargiassa le faceva brillare gli occhi e, arrotolato un pezzetto di carta, accese, come per un ricevimento, le 10 candele dei brutti candelabri posati ai lati del caminetto. Poi s'appoggiò al marmo e, avvicinato al fuoco morente uno dei suoi piedi scalzi, sollevando così sul di dietro la sottoveste malamente fermata alle anche, prese una sigaretta in un pacchetto rosa, l'accese e si mise a fumare. Il commissario le era tornato vicino, aspettando che il suo complice si fosse alzato. Lei gli domandò insolente: «Le capita spesso di far questo bel mestiere, signore?» Costui le rispose serio: «Il meno che mi è possibile, signora». Lei gli rise in faccia: «Me ne rallegro, non son robe pulite». Ostentava di non guardare, di non vedere suo marito. Intanto il tizio del letto si stava vestendo. S'era infilati i pantaloni, le scarpe e s'avvicinò mentre si metteva il panciotto. L'ufficiale di pubblica sicurezza si voltò verso di lui: «E ora, signore, vuol dirmi chi è?» L'altro non rispose. Il commissario disse: «Lei mi costringe ad arrestarla». L'uomo allora esclamò scattando: «Non mi tocchi! Godo dell'immunità parlamentare!» Duroy gli si scagliò contro, quasi volesse scaraventarlo a terra, e gli grugnì in faccia: «È colto in flagrante! In flagrante! Posso anche farlo arrestare se voglio! Posso e come!» Poi con voce vibrata disse: «Questo bel tomo si chiama La Roche-Mathieu! È il nostro ministro degli esteri!» Il commissario di pubblica sicurezza arretrò d'un passo sbalordito e balbettò: «In nome della verità, signore, vuol dirmi infine chi è?» L'uomo si decise ed esclamò con forza: «Una volta tanto quel miserabile non ha mentito. Mi chiamo proprio La Roche-Mathieu, sono il ministro». Poi, puntando l'indice sul petto di Georges, dove si scorgeva come un puntolino di fuoco, aggiunse: «E questo mascalzone porta sulla marsina la croce di cavaliere che gli ho regalato io!» Duroy si fece livido. Con gesto brusco si strappò dall'occhiello il nastrino e, buttatolo nel caminetto, esclamò: «Ecco in che conto si tiene una decorazione quando proviene da un porco come lei!» L'ufficiale di pubblica sicurezza riprese: «Signor ministro, l'ho sorpreso solo con la signora Duroy qui presente e pressoché nuda, lei ancora a letto. I vostri vestiti, sparsi alla rinfusa in tutte le stanze, costituiscono la prova del flagrante reato d'adulterio. Non può negare l'evidenza. Che ha da rispondermi?» La Roche-Mathieu mormorò: «Non ho nulla da dire. Faccia il suo dovere». Il commissario si rivolse a Madeleine: «Confessa lei che il signore è il suo amante?» Rispose cinicamente: «Non lo nego, è il mio amante». Il commissario prese qualche appunto sullo stato e la disposizione dell'appartamento e, quando ebbe finito di scrivere, il ministro, che ormai vestito aspettava col paltò sul braccio e il cappello in mano, domandò: «Ha ancora bisogno di me, signore? Che devo fare? Posso ritirarmi?» Duroy si voltò verso di lui e con un sorriso insolente gli disse: «Perché se ne vuole andare? Noi abbiamo finito. Può tornarsene a letto. Vi lasceremo soli». E, posato un dito sul braccio dell'ufficiale di pubblica sicurezza, soggiunse: «Andiamocene, signor commissario. Noi non abbiamo più nulla da fare qui». Un'ora dopo, Georges Duroy entrava nella redazione della Vie Française. C'era già Voltaire, che continuava a dirigere e a sorvegliare con sollecitudine il suo giornale, la cui diffusione era diventata enorme, favorendo al massimo le crescenti operazioni della sua banca. Il direttore alzò il capo e domandò: «Oh, lei qui ha un'aria strana. Perché non è venuto a cena da me? Di dove viene?» Il nostro giovanotto, sicuro dell'effetto, dichiarò, calcando bene ogni parola: «Vengo dall'aver silurato il ministro degli esteri». L'altro la prese per una spiritosaggine. Dall'aver silurato? Ma che dice? Sto per far cambiare il ministero, tutto qui. È ora di cacciar fuori quella carogna. Il vecchio trasecolato pensò che il suo cronista fosse Brillo. Mormorò: ma via, lei dà i numeri. Nemmen per idea. Ho sorpreso un momento fa la Roche-Mathieu in flagrante adulterio con mia moglie. Il commissario di pubblica sicurezza ha potuto constatare il fatto. Il ministro è fottuto. Walter, sbalordito, si alzò gli occhiali sulla fronte e domandò: non vuol mica prendermi per il bavero, vero? Dio me ne guardi. Anzi, scriverò un trafiletto sul fatterello. Devo farlo con discrezione, ma sarà una bomba per il ministro. Ormai è un uomo naufragato. Nessuno potrà rimetterlo a galla. La vie française non ha più interesse a trattarlo con riguardo. Il vecchio rimase per qualche istante perplesso. Poi si adattò alle circostanze. «Faccia pure», disse. «Peggio per chi si ficca in ginepraj simili». Elsa Galbato ha letto Bellamy di Guy de Maupassant, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.